24 Mattino. Mi sono trasferito anch'io a Berlino come Asia Argento. No. Per la delusione. Ma cosa c'entra, scusi? Asia Argento ha subito degli abusi, cioè. Perché io no? Ah, come no? Secondo lei, il mio rapporto con Renzi è stato consenziente? Ma cosa dice? Ma no! Mi aveva chiamato per un lavoro da premier. Renzi, sì. Certo, sì. Si chiacchierava. Sì. C'erano delle altre persone, a un certo punto. Sì. Gli altri sono spariti, lui ha detto vado di là a mettermi comodo. Sì. Renzi. E poi è tornato. E aveva una crema in mano. No. E Rosatellum dall'altra. Molestato con la crema e con il Rosatellum. 7:20 minuti, 15 secondi e noi siamo qui a discutere di questa grande giornata partendo da questo sublime Crozza fantastico che insieme al Fido Zalone mette in scena la passione del premier Gentiloni. Allora, come potete ovviamente immaginare, domina su tutto la notizia del Veneto e della Lombardia. Allora vi daremo un'ampia articolazione oggi straordinaria sui commenti e sugli editoriali. E iniziamo subito allora leggendo le prime pagine. Il Fatto: Zaia vince, Maroni pareggia, ma ora chi trema è Salvini. Questo il commento del giornale diretto da Marco Travaglio, Sanza, a pagina 3. Il Sole 24 Ore: casa, questo è importante, lo leggeremo, così le nuove tasse per tutti gli affitti brevi. Il Foglio: incubo Prodi a Palazzo Chigi con i voti di Grillo, il Ghigno e D'Alema. È un sogno che ha fatto il direttore Cerasa, che teme una campagna populista con questo esito. Il Tempo: vi piace vincere facile, il referendum bluff. Il Nord festeggia il successo scontato del sì all'autonomia, ma se Zaia gioisce per il quorum raggiunto, per Maroni l'affluenza è un mezzo flop. Il Fondo di Gianmarco Chiocci: voto a perdere. Il Giorno, un'apertura diversa, la morte è un social show, e ve lo racconteremo, veramente una storia incredibile. Un ragazzo, testimone di un incidente mortale, filma la scena, ma non chiama i soccorsi. Il Messaggero: voto al Nord, strappo a metà. Sapete che i quotidiani romani, diciamo, hanno espresso dei dubbi sulla legittimità, la forza e l'opportunità del referendum. L'effetto spacca Italia e la sfida nella Lega. Il Fondo è di Alessandro Campi. Il Giornale: benvenuti al Nord, voglia di autonomia, contento Alessandro Sallusti, il referendum è un successo, affluenza boom in Veneto 59%, alta anche in Lombardia 40%, il centrodestra esulta, da qui parte la riscossa. Il Corriere dello Sport: Roma 11 perle e poi fenomeno con la foto di Immobile. Campionato bellissimo, godiamocelo, e questo lo condivido proprio, di Alessandro Vocalelli, chi ama il calcio sa che quest'anno è così. La Stampa: Veneto e Lombardia vince la protesta, nuovo tassello nel mosaico dello scontento. Il Fondo di Francesco Bei. E poi c'è una foto centrale: Melania, la più amata del clan di Trump. Il Veneto vota e sceglie autonomia, il titolo del Corriere. Attacco hacker: hanno superato il secondo livello ma non il terzo, i pirati che volevano bloccare il voto. La voce del Nord che va ascoltata, Antonio Polito e Giannelli, ve lo dobbiamo raccontare ovviamente, immagini raccontate, è una foto, è una riproduzione del Leone di San Marco con la testa di Zaia. E vai! La Repubblica, referendum, la vittoria del Veneto, il punto di Stefano Folli, il rilancio leghista sul centrodestra. La Gazzetta dello Sport: Juve 10 lode, Milan 10 ed esplode. Questo è il panorama delle testate, ma se vi devo dare subito un parere, un senso, beh, bisogna leggere Zaia, no? È lui il vincitore. Allora, due interviste, Corriere della Sera, Repubblica, diverse dichiarazioni, il paragone con il muro di Berlino che abbiamo già evocato. E allora, cauto, tattico, in mattinata Luca Zaia aveva messo le mani avanti. Comunque vada, stiamo scrivendo una pagina di storia. In Veneto, il nostro Veneto non sarà più quello di prima. parole pronunciate alle 7, quando a San Vendemiano faceva ancora buio, e lui e la moglie Raffaella si sono presentati per primi al seggio della scuola elementare nel paese del Trevigiano dove vivono. Se a suo dire sarebbe andata comunque bene per il solo fatto di aver ottenuto dalla Corte il referendum sull'autonomia, figuriamoci il governatore a mezzanotte con quel numeretto che gli frullava davanti agli occhi, 58% o giù di lì, affluenza 8 punti oltre il quorum, il sì al 98%. È il Big Bang delle riforme costituzionali, dice Zaia al Corriere della Sera. È la caduta del muro di Berlino, ora posso dirlo, è andata bene. Vincono i veneti, vince il senso civico dei paroni a casa nostra. Il Veneto si candida al laboratorio delle autonomie. Questo il governatore rivendica dopo aver vinto anche sugli hacker che hanno superato 2 dei 3 livelli di sicurezza del nostro programma di rilevamento del voto. E il racconto è di Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera, però attenzione a quest'altro aspetto. Il nostro residuo fiscale, dice Zaia, cioè la differenza fra quanto viene versato a fisco e quanto torna in termini di servizi ai cittadini, ammonta a 15,4 miliardi di euro. È ora che i territori gestiscano le risorse prodotte sul territorio e smettano di finanziare gli spostamenti e gli sprechi dei territori ormai tecnicamente falliti. Chiederemo, attenzione, chiederemo i 9 decimi del gettito. E qui è tutta la chiave su cui si svolge la trattativa, e non è per niente facile capire che cosa può concedere lo Stato. Vado subito a Repubblica per darvi un'idea. Il ministro Martina dice: sì, discuteremo, ma i soldi delle tasse non sono trattabili. E che cosa dice Martina a Repubblica, pagina 4, per chi vuole un'opinione del governo, mentre viene incaricato una squadra di trattare da una parte e dall'altra? Potremmo avviare con il Veneto lo stesso tipo di confronto aperto dal presidente Emiliano Bonaccini. Partirà una discussione e, in caso di accordo, questo andrà votato in Parlamento con una legge. Credo che sia giusto discutere con altre regioni su chi deve gestire determinate materie, ma nell'ambito di un'idea federalista equilibrata, cooperativa e con un referendum consultivo da fare magari a valle del percorso, avendo già lavorato con un testo chiaro. Quindi chiaro che cosa dice? Competenze sì, soldi no. Ci fermiamo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Far frutta la natura di prima mano. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Ai. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. JayGalileo.com. Mattino. Ho detto, quando un forestiero viene al sud piange 2 volte, quando arriva e quando parte. È vero, quando sono arrivato sono stato proprio male. Pensate mo che ve ne andate. Benvenuti al sud e si piange 2 volte con questo film, che è anche una chiave per leggere quello che sta accadendo. Allora, la sezione speciale dedicata al referendum consultivo sull'autonomia, avevo selezionato alcuni pezzi che è importante leggere. L'Espresso, perché ci dà una chiave molto interessante con la copertina e il fondo di Da Milano, secessionellum, è il vero rischio della legge elettorale, nord alla destra, PD e Grillo a contendersi centro e sud e un paese diviso anche socialmente. Cosa sostiene Da Milano, ed è interessante soprattutto alla luce di questo risultato, che nella legge elettorale c'è insito il rischio di una divisione. La nuova legge elettorale, il Rosatellum, avrebbe l'effetto di consegnare il settentrione alle destre, con PD e 5 Stelle a contendersi il mezzogiorno. Così interessi e blocchi territoriali cambiano la politica, cambiano le relazioni sociali e spaccano il paese. Bene, chi vuole leggerlo, sono una doppia paginata di Da Milano. Ma vi dicevo, pareri controvento, Marzotto, sul Corriere della Sera. Forse il più noto, il più celebre industriale del nord-est, è referendum scettico. Noi fra l'altro avremo Zaia alle 8:30, restate incollate. E da oggi meno tasse per i veneti, chiede Francesco Battistini? Spiegheranno che cosa ci fanno con questo voto, dice Marzotto. È soltanto un ticket elettorale da sventolare, un segnale certo, il Veneto, locomotiva del paese, esige più efficienza. Bene, spiega Matteo Marzotto, come sapete erede di una grande famiglia, imprenditore. Bene. Però è una cosa generica. Zaia chiederà a Roma di decidere pure nel commercio estero. Per amor del cielo, non diciamo sciocchezze, spiega Marzotto. Capisco la necessità di una migliore redistribuzione delle risorse, ma poi che facciamo? Anche la politica estera veneta, ma dai. Matteo Marzotto, racconta Battistini su Corriere della Sera, pagina 5, ha mantenuto la sua promessa. 50 anni fa, 50 anni di vita vissuti fra il Vicentino e Milano, Veneto, innamorato dell'Italia, non ha votato. Una domanda sbagliata, senza valore, spiega. Senza alcuna possibilità di determinare una scelta vera. Vogliamo farci credere da oggi che cambierà qualcosa? Aprire un negoziato con Roma? Poteva farlo il governo regionale. E quando c'è stata l'occasione di un federalismo vero, la Lega a Roma non ha governato bene come in Veneto. Anzi, abbiamo avuto quel pasticcio della riforma del titolo 5, del quinto della Costituzione. Manager da copertina, estroverso, scrive Battistini, chiaro com'era sua mamma Marta, Marzotto non ama essere avvicinato al leader contrario al referendum, non a D'Alema, non a Bersani, non a Giorgia Meloni. E per Meloni e Zaia spiega anche simpatia. Capisco, cavalcano un sentimento molto diffuso. Arrivassero più soldi, le strade, la sicurezza, l'ambiente, la salvezza di Venezia sarebbero priorità. E qui c'è un altro punto importante. Il problema è non disunire l'Italia. Questo sì è importante. Cade fra la Brexit e la Catalogna e dunque questo referendum non è indifferente. E se Zaia comincia a sentirsi un piccolo Puigdemont, non penso, dice Marzotto, che voglia alzare la palla. C'è sempre il rischio che queste cose scappino di mano. Ma Barcellona ha un'altra storia. I veneti poi sono intelligenti, hanno una coscienza nazionale. Vicenza è medaglia d'oro al valor civile. Verona è un crocevia all'Europa. L'autodeterminazione è una cosa troppo delicata per lasciarla deficienti come quel Farage che ha voluto la Brexit. E allora avete avuto un'opinione spiazzante di un veneto eccellente e io vi do anche ovviamente un parere contrario, quello della Meloni sul tempo. La Meloni dice che non è fondamentale questo successo, che in realtà non cambia molto, mentre invece leggeremo delle retroscena che dicono il contrario anche dentro la Lega, Allora, diceva la Meloni a pagina 5, non c'è a pagina 5, dove l'ho letta? Sto messo male. Allora, non trovo più la Meloni, sarà stato sul Libero, sul Messaggero. Eccolo qua. Allora, non c'è stato nessun plebiscito, è un federalismo che si può fare solo con il presidenzialismo. E questo è il parere di Giorgia Meloni. L'autonomia va bene se non è fatta contro qualcun altro. Non bisogna far credere che c'è uno scippo di risorse. L'hanno raccontato che si potevano ottenere decine di miliardi, ma non è vero. Gran parte di quei soldi serve a pagare le scuole, la difesa, le forze dell'ordine e spese che servono anche a Lombardi e Veneti. E attenzione, che una politica economica basata sulle singole regioni rischia di non essere utile neanche a quelle regioni. E questa è la Meloni. Poi tre editoriali, Folli, Polito e Campi. Allora, Folli sulla Repubblica, Polito sul Corriere della Sera e Campi sul Messaggero. Ha vinto la Serenissima, dice Folli su Repubblica, pagina 1. Non in senso letterale, è ovvio, ma il referendum sull'autonomia ha dato in Veneto un risultato da non sottovalutare. In primo luogo perché si distingue da quello parallelo in Lombardia. Nella terra di Zaia si è andati ben oltre il quorum del 50%, qualunque cosa significhi il quorum in un referendum consultivo. Nella regione di Maroni, dove non c'era alcuna soglia da raggiungere, ha votato circa il 40%. Vuol dire che in Veneto si è fatto sentire più forte il sentimento dell'autonomia, che è all'origine della prima Lega, gelosa delle sue caratteristiche, anche rispetto al ramo lombardo, scrive Foglie su Repubblica. Da Bossi a Maroni, ora a Salvini, la Lega Lombarda ha fermato negli anni il suo primato e i veneti si sono dovuti accontentare di un ruolo in apparenza subordinato. Tuttavia, nel momento in cui Zai è diventato presidente della regione, qualcosa è cambiato. Sì, perché qui è il riferimento anche ai rapporti di forza dentro la Lega. E invece di Polito, a pagina 7, vi volevo leggere questo passaggio. Eccolo qui. Il partito di governo, il PD, molto incerto sul da farsi, schieratosi a favore del referendum con i sindaci del nord, astenutosi invece politicamente con il suo vice segretario Martina, agnostico con il suo leader Renzi che non si è pronunciato, evidentemente troppo distratto dalle banche per avvertire quanto stava accadendo in due grandi regioni settentrionali, ha fallito. Il che ora apre un rilevante problema politico: come trasformare questa spinta popolare in una trattativa con un governo. Questo è il nodo che il referendum apre a sinistra nel pezzo di Polito. Cosa che nessuno avrebbe immaginato fino a pochi giorni fa. Anche il tono e lo stile di questa consultazione referendaria si sono rivelati un successo. A differenza del separatismo inglese dall'Europa e di quello catalano dalla Spagna, scrive Polito sul Corriere a pagina 9, che hanno riempito le urne ma non hanno finora ottenuto niente, questa giornata si è svolta in una cornice costituzionale legittima. E allora capite che si aprono due tavoli, cioè uno dentro la Lega, uno fra il Veneto e il governo centrale, ma un altro, ed è ancora più importante, si apre dentro la sinistra, che in parte ha aderito e in parte no a questo referendum. Vi dicevo la posizione del governo a pagina 9 di Corriere della Sera. Ho letto l'intervista di Martina su Repubblica e dicevo che il problema è il governo è pronto al confronto, ma il modello, dice, è l'intesa con l'Emilia. Allora è stato nominato un responsabile della negoziazione e il problema è questo, lo scrive Dino Martirano sul Corriere. La linea di Palazzo Chigi, quella delle regioni ad autonomia differenziata, è una via tracciata con scrupolo della Costituzione, terzo comma dell'articolo 116, che l'Emilia-Romagna ha già imboccato senza però aprire la laboriosa e costosa fase del referendum consultivo. Dunque, dopo 16 anni di calma piatta, il terzo comma dell'articolo 116 è stato introdotto nella Carta della Riforma del titolo V del 2001. Ben vengano le proposte delle regioni virtuose che, in cambio di quote IRPEF, IVA e di altre imposte, riescano a prendersi in carico alcune competenze. E allora che cosa ha fatto Gentiloni? Ha affidato l'intero pacchetto degli affari regionali al sottosegretario Gian Claudio Bressa, che è un dirigente del PD che proprio quella riforma curò. Avete capito? Si apre una fase abbastanza complessa. E l'ultimo parere che vi leggevo, quello di Campi sul Messaggero, un parere critico, perché come sapete il Messaggero ha sempre detto che questo referendum era virtuale. E allora, pagina 18, quanto alla Lega, invece di chiedersi cosa resterà dopo questo voto del progetto salviniano di un partito nazionalsovranista, ecco cosa bisogna fare. Salvini in questi mesi ha finto di cavalcare questo referendum, in realtà l'ha subito con fastidio, sapendo che una vittoria politica come quella che Zaia in particolare ha fatto registrare e avrebbe rappresentato un freno alle sue ambizioni di futuro leader del centrodestra e avrebbe aperto una pericolosa competizione interna. Ma tra il rischio di una divisione dell'Italia e quello di divisione della Lega, il secondo, con tutto rispetto, ci sembra meno grave. Però insinua, dice che questo referendum colpisce in qualche modo le ambizioni di Salvini di diventare un leader nazionale. Allora andiamo invece al resto della politica, dove tutto è dominato da Renzi, che ha parlato in mezz'ora e ha risposto male alla proposta di Speranza, che era arrivata il giorno prima con un'intervista a Repubblica. Il leader di MDP aveva detto: sai, mettiamoci d'accordo, tirate di mezzo il Rosatellum, rivediamo un po' quello che avete fatto sul Jobs Act e possiamo dialogare. Ma che? Renzi ha detto niente da fare, i big del PD spingono Renzi al dialogo, ma è subito guerra sul Rosatellum. Il segretario Dem chiede di trattare, discutiamo, però senza azzerare la legge elettorale. E allora Bersani chiude la porta e dice non c'è niente da fare. E il retroscena è ciriaco, molto importante, mettiamo la fiducia sul Rosatellum e approviamo la legge in 3 giorni. Poi possiamo discutere con chi vi pare. Matteo Renzi sapeva che presto o tardi l'apertura di Speranza sarebbe arrivata. È l'ovvia conseguenza della nostra riforma elettorale. MDP, bersaniani sono in difficoltà e cercano una sponda fra i miei avversari interni. Attaccheranno dopo le regionali siciliane. Avete capito? Ci fermiamo ancora. Ciao papà, sei obeso. Mattino. Lo sapete? Oggi, a proposito di storia, è l'anniversario della battaglia di El Alamein. Io ci sono stato lì in Africa, un santuario, un sacrario meraviglioso in mezzo al deserto, una terra ancora carica di sangue, perché ve lo ricordo così. Ma oggi c'è una notizia di cronaca che ha qualcosa di fantascientifico e allora va letta a pagina 23 del Corriere, ma è un po' su tutti i giornali perché non era mai accaduto che di solito si diceva sono le fake news, no? E invece pensate, vola per 7 piani il miracolo del bambino illeso. Milano, a 4 anni, è caduto dal balcone, l'impatto su una tettoia lo ha salvato, era immobile, chiamava la mamma, piangeva, ma non si è fatto nulla. Andrea Galli e Gianni Santucci, a pagina 24 del Corriere, 2 ragazzi alle 9.30 fumavano sul balcone di un condominio, via Francesco De Santis, quartiere Stadera, periferia sud, attraverso i cortili interni, in lontananza, hanno visto una persona, forse una donna, scivolare sul tetto e precipitare. Sono scesi, con foga, con disperazione, non sapendo quale esattamente fosse, hanno citofonato in tutti i palazzi del circondario per dare allarme, fin quando hanno parlato con i 4 residenti nordafricani di un appartamento al pian terreno di via Isimbardi 6, i quali hanno ricordato di aver sentito un rumore. E allora sono andati in giardino, vicino alla tettoia che avevano messo per riparare i vasi, le cose che cadevano dai piani alti, e hanno trovato questo bambino. Miracolo, se è un miracolo, meno male. Allora, Lucrezia Reichlin sul Corriere della Sera, il secondo di una serie di 2 articoloni sull'euro. Sono degli articoli abbastanza critici da parte di una economista prestigiosa e di un quotidiano istituzionale sull'euro. Questo è il secondo e la domanda è: funziona così l'euro? Io lo riassumo un po' al volo. La risposta della Reichlin è: così no, così non funziona. Allora, 20 miliardi, questo è il tema del Sole 24 Ore. Questo casa, le nuove tasse per tutti gli affitti brevi. Sì, perché che cosa cambia? Una cosa importantissima per le nostre vite. Le regole della cedolare secca, sapete che si paga una quota, basta, non si entra con l'IRPEF, che prima si applicavano fino a ieri ai contratti di affitto di qualunque appartamento, adesso si applicano anche ai contratti turistici, a quelli ottenuti via web e ai transitori, che sono sempre più diffusi. Allora, a pagina 3, questo fondamentale pezzo, perché sono le cose che cambiano le nostre vite. E ecco cosa cambia sui contratti brevi: opportunità di risparmio con la cedolare. Cristiano Dell'Oste, il Sole, pagina 3, c'è anche uno schema complesso e interessante per capire come si paga e dove si paga. Allora, Banca Italia su Visco. Sì, perché dopo lo shock sembra che il Quirinale voglia tenere il punto sulla nomina del governatore, che sapete Renzi non vuole. Allora, intervista di Violante, si può criticare, ma non con un documento parlamentare. L'accelerazione del Quirinale, subito la decisione per Banca d'Italia. Mattarella teme che passi l'idea di un paese in cui la politica può commissariare l'istituto centrale. E ancora una notizia importante dell'economia su Repubblica, pagina 9, una simulazione pensate di che cosa accadrebbe se ci fosse una nuova crisi dei tassi. Un conto da oltre 20 miliardi in 3 anni, ecco il costo di un nuovo shock sui tassi. Lo scenario, uno studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, simula cosa accadrebbe con un rialzo dello spread simile a quello avvenuto fra il 2010 e il 2011, e che cosa accadrebbe appunto questo incredibile salasso, 20 miliardi, un elettroshock per i conti del nostro Stato. E il pezzo è di Valentina Conte, va letto, è pieno di tabelle e di dati. E allora andiamo però alla raffica. Al Virgilio, un'autogestione che sembra peggio di quella leggendaria raccontata dal film di Muccino, pagina 33. Virgilio denuncia in procura dopo le feste con alcol e droga. I dirigenti del liceo sono allarmati. La preside: l'autogestione è stato un terreno di illegalità, dalle pasticche di Xanax ai danni, serve chiarezza sulle responsabilità. Beh, ragazzi, oh! Sul Fatto, Danang era diventato l'indiscusso leader del partito comunista vietnamita. Pensate, è stato travolto dallo scandalo di una falsa laurea. Fuori dal partito, l'enfant prodige è stato silurato e giubilato. Il Giorno, pagina 2-3. Questa è veramente la morte è un social show, veramente un titolo giusto. Vede un incidente mortale a cavallo fra sabato e domenica a Riccione nel Riminese, Simone Ugolini, un ragazzo di 24 anni, inizia a filmare col telefonino, ci racconta Grazia Buscaglia sul quotidiano, e praticamente non chiama i soccorsi e lo dice nella diretta. Beh, chi vede questa diretta chiama i soccorsi, sapete che questo è addirittura un reato. L'autore del video è stato bersagliato di insulti su internet, ci racconta Grazia Buscaglia. La parola più gentile è stata sciacallo. La procura sta valutando se aprire un'inchiesta oppure no. Giarrusso a Malta, pagina 23. Il parlamentare dei 5 Stelle si è dichiarato persona indesiderata, minaccia per la Repubblica Maltese, ma la cosa interessante è che tutti hanno smentito, persino la deputata, la Castelli, dei 5 Stelle, che era nella stessa delegazione e non ha creato nessun problema. Le ultime parole famose, qui c'è uno speciale molto bello del Fatto, se perdo lascio, sui politici che dicono: Silvio, se non ho la maggioranza mi ritiro, e non si è ritirato. Mastella: nel 2021 getto la spugna, lo prometto, non l'ho fatto. Renzi: la falsa promessa di abbandonare la politica al referendum, non l'ho fatto. Maria Elena Boschi: se vince no vado via, non l'ho fatto. Beppe Grillo: o vinciamo l'europeo o mollo tutto, non l'ho fatto. Giorgio Napolitano: mai un secondo mandato, si è fatto rileggere, fini la casa di Tugliani, se sua mi dimetto. Non si è dimesso. Veltroni: sempre pronto per andare in Africa, se sarò eletto il nuovo sindaco alla fine del mandato andrò in Africa, e come sapete non c'è andato. Beh, una pagina interessante di Patrizia De Rubertis, pagina 19 del Fatto, se volete godere con le false promesse dei politici. Ci vediamo fra poco con I Cani e I Gatti. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese, no, tutti i giorni di primo mattino, c'è anche Oscar Giannino.